Sono le sé, te morto di sé, te solo l'odore del caffè. Ci vuole arte a scordarsi di sé, ci vuole poco se parlo di te. Voglia di niente, due sigarette, tutte le vite in un weekend. E nel cuore un buco che ci sta l'America. Ho gli occhi che fanno impressione, come le cascate, come le macchine incidentate, che a furia di pensarti l'inverno in un attimo estate. Le ore di vite sprecate a guardare la vita reale che non fa per me. Un giorno normale che non fa per me. Che so fare meglio, meglio per te. Sono distante in giro per niente, ma sulle strade che facevi tu, tra le vetrine e le luci blu, non lo ritrovo quel monolocale. Qui senza di te il quartiere è tutto uguale. Sai come la musica quando fa male. E nel cuore un buco che non trova logica. Ho gli occhi che fanno impressione, come le cascate, come le macchine incidentate, che a furia di pensarti l'inverno in un attimo estate. Le ore di vite sprecate a guardare la vita reale che non fa per me. Un giorno normale che non fa per me. Che so fare meglio, meglio a te. Che fai luce e mi togli le ombre e mi fai venire la sete. Come se cascate, come le macchine incidentate, che a furia di pensarti l'inverno.